Se una bestia arrivada, fino a intro è la luna e non ha battito cosa. Se una bestia arrivata, sa cosa da fortuna. Se sbaglia una sposa, se si sposa scoiovata. Simugeo a comporare in un salme susino sino la stocco deo non li scrette più. Sandalione, tan greco stitulao, scauno sandalu varia. Terras de sandalione, come uno sprus corria, se sprena de sordaos, de base se presone. Artista manizza giovennello con tanta passione. Sa lotta è brato bello, serva de lezione, brosor militarista. Nudo che ne sedda e ne brilla. Cadderi sedi leso sa tutto sa sfamiglia, bon manda su saluto su cuore so.